Tempo di Sport con Carlo Genta. Cesare Prandelli sulla formazione di domani, Cassano e Balotelli insieme? Sì, linea di massima sì. Abbiamo provato questo modulo, abbiamo cercato di avere comunque degli equilibri perché abbiamo un potenziale offensivo importante. La risposta è stata buona, i giocatori hanno dato la massima disponibilità con entusiasmo. Cesare Prandelli ha parlato poco fa, dunque come avete sentito ha deciso. Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta, le vostre telefonate 800 24 00 24, numero verde, diretta oggi tutta l'estate. Messaggi 349 238 6666, in più Cassano Balotelli domani e a Mauri insieme domani sera ad Upton Park. C'è di più, Cassano giocherà con il numero 10, Balotelli con il numero 9, anche dalle piccole cose si capisce che è una nazionale che nasce, come scrive, come sintetizza perfettamente Enrico Gurò su Repubblica di oggi, con il senso dello spettacolo. Enrico, buon pomeriggio. Ciao. Ciao. Senso dello spettacolo c'è. Tutti e tre in campo, Cassano 10, Balotelli 9, quello che tutti volevano. Pazienza se insomma con la solita perversione la politica ha già cominciato ad infilarci il becco. Ma facciamo finta di vivere in un paese maturo capace di saltare queste antipatiche polemichette di retroguardia. È la nazionale che tutti vogliono, la nazionale più trasversale possibile. Sì, sì, è una nazionale che dopo la disfatta del mondiale non poteva sicuramente dribblare la fantasia. Lippi non l'ha fatto e tutti sono abbastanza contenti, però dagli slogan adesso bisogna passare al campo. E vedere che cosa combinano insieme questi tre giocatori, io direi soprattutto due, però Cassano e Balotelli, perché sì, è soprattutto su di loro che c'è la curiosità. Cassano a Mauri, Balotelli, Prandelli prima ha parlato di equilibrio, per trovare un equilibrio, qui torno all'argomento di questo restyling, di questa aria nuova che si vuole introdurre fin da subito, per trovare un equilibrio con questi giocatori è chiaro che servirà molto, molto più di due giorni di lavoro ad agosto, no? Sì, sì, questo è vero. È anche vero che le prime partite che attendono l'Italia, quelle con i tre punti a settembre contro Estonia e Faroe, teoricamente sono due partite nelle quali anche una squadra in cerca di equilibrio può abbinare, come dice Prandelli, il risultato allo spettacolo, quindi insomma diciamo che si può trovare un compromesso in questa fase di costruzione, mentre ben diversa sarebbe la situazione se l'Italia dovesse affrontare degli avversari più forti, più titolati di questo. A Mauri, come lo vedi in questa nazionale? Ci sono molte interviste, non canterò l'inno, ma chi se ne importa? A me non importa di chi canta l'inno, di chi non lo canta, anzi mi piacerebbe che nessuno lo cantasse, perché mi piace leggere silenzio e concentrazione sulle facce dei giocatori, questi però sono gusti personali. Sul campo, a Mauri, come lo vedi in questo gruppo? Ma in questi due allenamenti che si sono visti a Coverciano finora, l'ho visto piuttosto bene, piuttosto integrato soprattutto nel tipo di gioco. È il centravanti perfetto da un certo punto di vista per il gioco di Balotelli e Cassano, che sono due calciatori in grado di lanciare all'improvviso negli spazi anche di prima l'attaccante centrale con i loro tagli improvvisi, soprattutto Cassano. Ho visto più volte questo tipo di schema che poi è istintivo in Cassano. Quello che mi lascia perplesso in Amauri, e che si è visto anche in allenamento, è che non è proprio il massimo dal punto di vista della tecnica dei piedi. Però anche questi sono gusti personali. Se segnerà, se riuscirà a dimostrare in partita di essere all'altezza della nazionale, visto anche che dopo quello che è successo al mondiale effettivamente l'attacco dell'Italia ha bisogno di fare molti gol, ben venga anche a Mauri. Io non ho perplessità legate ad altri fattori, ma sì, la mia perplessità è più che altro tecnica. Sì, e su questa storia dell'inno e delle polemiche della Lega, cosa ne pensi? Ma io penso che, a essere sinceri, il problema di Mauri non è stato alla base un problema legato alla sua nazionalità soltanto, è stato legato al fatto che aveva dato fastidio a molti azzurri che lui in un primo tempo aveva detto di sì al Brasile, sì, che quindi se il Brasile lo avesse portato davvero al mondiale ci sarebbe andato di corsa, poi la cosa non si è verificata, però in un primo tempo Amauri aveva espresso la sua preferenza per il Brasile, che è legittimo essendo un giocatore brasiliano. Certo. Quindi diciamo che secondo me il Tadeo di Amauri in origine è un pochino diverso da quello di Taddei o di Thiago Motta o di tutti gli altri che sono in possesso del doppio passaporto. Detto questo, però, una volta che Amauri ha fatto marcia indietro e l'ha fatto più di una volta in pubblico con molta chiarezza, mi sembra un argomento abbastanza stucchevole. Assolutamente. Tanto più se a tirarlo fuori sono dei personaggi della Lega che durante il mondiale non ha fatto altro che ti fare contro, no? Di fare per una ipotetica Padania che per fortuna ancora non esiste, speriamo che non esista mai. Sì, questo è abbastanza curioso, ma infatti è stato immediatamente notato, no? Come al mondiale di favate Paraguay o Nuova Zelanda, chiunque capitasse a tiro dell'Italia. E adesso rompete le scatole che questo è nato in Brasile pur avendo regolari, a questo punto, regolari documenti italiani. Certo. Una nostra tipica bizzarria. Per chiudere, Enrico, la vicenda Gilardino. Io sono propenso a credere a Prandelli quando nota come giocatori come Gilardino e Pazzini. Su Pazzini si potrebbe discutere, però Gilardino è un suo pupillo, l'ha voluto alla Fiorentina, l'ha reso grande al Parma, dice: lo conosco bene, inutile chiamarlo adesso, voglio conoscerne degli altri. Lui sarà comunque un giocatore di questa nazionale. Credo che il problema non esista affatto, perché se no varrebbe anche per Montolivo, per esempio, che in questa partita partirà come riserva. Allora si potrebbe dire che Prandelli ha bocciato anche Montolivo. Semplicemente Gilardino lo conosce, non l'ha chiamato per questo. Credo che al 90% Gilardino ci sarà a settembre, quando iniziano le partite più importanti, come dovrebbe rientrare anche Pirlo. Quello che sicuramente Prandelli non garantisce è però il posto fisso a nessuno, questo lo ha detto abbastanza chiaramente, però credo che se deve scegliere a tavolino, Gilardino è il suo centravanti. Grazie Enrico, buon lavoro e buon viaggio. A voi, ciao. Grazie, grazie Enrico Currò. Adesso comincio a parlare con gli ascoltatori, prima è da Roma, Aurelio, 800 24 00 24 è il numero verde. Vi segnalo invece, sempre in chiave azzurra, le parole di De Rossi, neocapitano: la decisione di convocare in nazionale i giocatori oriundi spetta solo all'allenatore. I paletti di sicuro non deve mettere la Lega Nord, ha detto De Rossi. Oltretutto, due mesi fa nessuno della Lega tifava per noi. Abbiamo appena detto, no? Anzi, gli importava di più il risultato del Paraguay, ha continuato De Rossi. È ovvio che l'Italia è sempre stata legata ad un senso di appartenenza, ma il calcio, basta vedere quanto accade in Spagna e in Germania, sta andando in questa direzione. E comunque prima c'era Camoranesi, ora c'è Amauri, non mi pare che il cambiamento sia enorme. Così Daniele De Rossi. Un'altra notizia che invece con l'azzurro non c'entra, però è di ora, ve la do, ve la giro così come è stata battuta dalle agenzie alle 13.50. Krasic: ho raggiunto un accordo con la Juventus, il nazionale serbo, insomma, ha trovato questo accordo, ha detto: ho fatto quello che tocca a me, adesso tocca alle due società. Krasic d'accordo, Juve e CSKA di Mosca, che detiene il contratto del giocatore, ancora no, e insomma mi pare che sia un po' il balletto dell'estate, no? C'è chi si accorda col giocatore, poi magari non trova l'accordo con il club in cui il giocatore deve andare, vicenda Barotelli. C'è chi invece mette Maicon sul mercato e poi lo ritira, vicenda di questi giorni. Mercato strano questo. Aurelio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo intervenire su questa annosa questione degli oriundi, diciamo, chiamiamoli così. Sì. E niente, io volevo dire questo, per quello che mi riguarda, quello che è il mio pensiero di comune cittadino. Io credo che, non so, ragazzi come Balotelli, voglio dire ragazzi che comunque dall'età dell'infanzia, non so se penso sia stato adottato, non lo so, comunque sì, Balotelli italiano, su questo non è oriundo, è italiano. Ragazzi di questo tipo, veramente per me, ok, italiano a tutti gli effetti, sinceramente nutro perplessità nel momento in cui diciamo si diventa italiani a 20-25 anni, e questo un po' mi lascia perplesso, però voglio dire, lo accetto come in tutti gli sport, l'atletica, però a questo punto mi domando anche, e magari è una domanda che gira a lei, il senso poi anche di chiamare queste competizioni anche un po', cioè la nazionalità, l'Italia, forse magari converrebbe trovare nuove terminologie, perché anche ho visto la Germania nei mondiali, insomma, eccetera. Quindi non so se lì una provocazione. Sì, no, ma capisco, ed è abbastanza pensiero diffuso questo. Non il mio, però, perché insomma, a parte che nella Germania giocavano i tedeschi, perché da Khedira a tutti a Ozil, a tutti quelli che abbiamo ammirato ai mondiali, insomma, sono nati in Germania da un genitore tedesco, ma poi io non ci trovo nulla di male in questa evoluzione. Ad esempio a Mauri, è vero che è diventato, non ha parenti italiani lui, a differenza di Taddei e di Thiago Motta, che hanno antenati italiani esattamente come Camoranesi. Però a Mauri ha acquisito la cittadinanza dopo una lunga trafila, ha avuto questo passaporto, non l'ha rubato, non l'ha comprato, lo ha regolarmente avuto a termini di legge, è tra l'altro un giocatore che ha 30 anni e gioca nel nostro paese da 9, è arrivato nel 2001 a Parma dopo una stagione a Bellinzona, quindi è arrivato qui a 20 anni. Insomma, 10 anni nel nostro calcio, nel nostro campionato, ottiene il passaporto, io non ci vedo nulla di peccaminoso in tutto questo. Mi sembra una normale evoluzione della società. Ci fermiamo per il traffico, poi ricominciamo a parlare insieme. 800 24 0024. A tempo di sport. Un'altra notizia di cronaca in chiave azzurra, non riguarda il calcio e non è una bella notizia, ma era in qualche modo attesa. Alessia Filippi è stata eliminata in batteria agli europei di nuoto di Budapest nei 200 dorso, non sta bene, lo sapevamo, e dunque questo risultato, ripeto, il risultato negativo era comunque da mettere nel preventivo. Vi voglio far sentire un'altra battuta di Prandelli, che ha parlato una mezz'oretta fa. È tornato su concetti già espressi ieri, chiede alla questa nazionale grande generosità, sentiamolo. Per tutti in questi due giorni c'è stata la voglia di esserci, la voglia di essere veramente a far parte di una squadra che può avere un lungo percorso, quindi grande entusiasmo. Siamo alla ricerca di un modulo, quindi abbiamo provato con un centrocampo a 3, ovviamente con qualche problema, perché non è facile cambiare. L'idea è di trovare, strada facendo, un modulo che possa dare continuità. Grande generosità, grande voglia di andare in profondità, accorciare la squadra, essere ordinati. Chiedo soltanto grande generosità. Ero molto emozionato ieri, oggi ho visto la squadra molto attenta, quindi desideroso di vederla in campo. Così Prandelli. Vi voglio buttare una suggestione, magari ne parliamo insieme. 800 24 00 24 è il numero verde, vi ricordo. Lasciando stare Vico, questi giorni mi sembra di averli già visti. Mi sembra di averli già visti dopo il fallimento dell'86, no? Ve lo ricordate? Da campioni del mondo andiamo al mondiale in Messico, usciamo senza lasciare traccia. Tutti volevano i giovani, e allora al posto di Prandelli c'era Zeglio Vicini, CT dell'Under Pigliatutto, al posto di Cassano c'era Mancini, c'era Roberto Mancini, al posto di Ferri c'era Di Bonucci, dell'attuale Bonucci c'era Riccardo Ferri, insomma nasceva quella nazionale che poi arrivò terza a Italia 90. Al posto di Gilardino probabilmente c'era Aldo Serena. Buongiorno Aldo. Buongiorno a tutti. Tu c'eri nell'86 in Messico e sei stato nostro centravanti a Italia 90. Sì. Ti rivedi in questa situazione che si sta creando, in questa nazionale che sta nascendo dalle ceneri di quel fallimento? Sì, ma io penso che quando si cambia pagina bisogna andare con novità, e per cambiare bene bisogna che sia stato cambiamento sia nella conduzione tecnica ed anche poi con dei giocatori. Era stato più facile per Vicini in quell'occasione, perché con la sua Under 21 aveva vinto molto, e da Donadoni, Giannini, hai detto Ferri, c'era sì. Mancini, Viali faceva già parte della nazionale alla pari di De Napoli. Però per Prandelli credo sia un po' più difficile rispetto a Vicini, perché deve trovare un assieme, deve mettere in campo dei giocatori che hanno talento, che però hanno un carattere bizzarro come Balotelli e Cassano, e quindi vedo con più difficoltà l'avventura di Prandelli rispetto a quella che è stata di Vicini. Perché tu dici Prandelli comunque parte da zero, Vicini partiva da un nucleo che aveva vinto comunque tutto a livello di Under 21. Di Under 21, sì. Aveva molta fiducia, aveva una relazione anche abbastanza stretta con più elementi, sì. E di fatto insomma quella nazionale che è partita dopo l'86 aveva 6 giocatori, 7 dell'Under 21, sì. E con i quali Vicini aveva vinto e sui quali riponeva una grande fiducia. Comunque quella era una nazionale bella e simpatica. Cosa ricordi di quel gruppo? Com'era quel gruppo dall'interno, Aldo? Ma era un gruppo, devo dire che Vicini era un bravo mediatore, sì. Aveva fatto una carriera con la federazione, quindi ha acquisito alcuni segreti delle conduzioni precedenti, dico Berzot ed anche altri, e quindi sapeva mediare, era abbastanza deciso ma sempre morbido nei momenti di difficoltà. Senti, ci vuole qualità, indubbiamente parola d'ordine per questa nazionale, però il pericolo è quello di scimmiottare la Spagna, che viene continuamente richiamata. Non bisogna rinunciare alla propria anima per assomigliare agli altri. Anch'io penso così, e in questo pensiero poi spesso anche sento la tua trasmissione, mi sono piaciute alcuni approfondimenti anche sulle novità che ci sono state in federazione con gli arrivi di Sacchi, sì. Con gli arrivi appunto di Roberto Baggio e di Rivera. Io penso che cambiare tanto perché le cose non cambino a volte è stato un segreto dell'Italia. In questo caso spero che non sia così e che possano mettere in campo proprio le loro qualità, la loro esperienza, la loro storia di calcio, e sono tre personaggi di altissimo profilo. Assolutamente. Il problema è quanti poteri avranno, Aldo. Che poteri avranno per lavorare sul serio? Che possibilità avranno di lavorare sul serio? Perché sennò diventa un'operazione di marketing. Sì, e io anch'io ho qualche dubbio che possa magari essere anche così. Si rifletterà anche sulla nazionale questo punto di domanda? Io spero di no, perché, e credo anche di no, perché Prandelli è un allenatore che ormai ha una grande esperienza, un'esperienza di giovani. Avrei visto, ecco, vicino a Prandelli suo mentore che era Favini, ecco, che è stato quello che lo ha di fatto aiutato nella sua crescita a fare l'allenatore. Sì, sì. Lavorando con i giovani in una costruzione di un progetto. E quello era più funzionale. Quella sarebbe stata una novità vera. Che magari è chiaro che il grande pubblico conosce Baggio, Rivera, eccetera. Mino Favini, invece, è quello che si è inventato il settore giovanile dell'Atalanta, e si è inventato tra gli altri anche Cesare Prandelli allenatore. Quindi quella sarebbe stata un'operazione con un senso logico e tecnico. Sì, anch'io l'ho pensato. Grazie Aldo, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Grazie ad Aldo Serena. Adesso torniamo agli ascoltatori, lasciando stare qualche messaggio un po' stupidello. 349-238-6666. Non lasciando stare invece questa notizia, 14:20 per le agenzie, Maicon rimane all'Inter. Lo ha affermato il presidente Massimo Moratti. È stato trattato da altre società come altri allenatori, lo considero forte, talmente forte che forse mi è concesso anche di non venderlo. Anche in caso di un'offerta del Real Madrid da 30 milioni, Maicon l'ho ritirato dal mercato, ha detto Moratti. Fabio, provincia di Padova, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Ascolta, niente, volevo parlare di Amauri, del caso Amauri, sì. Che sta parlando adesso. Sì. Niente, volevo chiederti solamente una cosa, ma con tutti gli attaccanti che abbiamo noi, dal Gilardino, ai Ballotelli, ai Pazzini, cioè, avevamo proprio bisogno di fare italiano Amauri? No, non ha bisogno. No, Fabio, attenzione. Dietro questa operazione ci sia qualcosa di cosa? Anche di politico può essere. Non ho idea. Di politico non ho idea, Fabio, però questa domanda è da girare a Prandelli, cioè se l'ha chiamato vuol dire che è funzionale alla squadra che ha in mente, che vuole vederlo, che vuole provarlo comunque, che è comunque una possibilità, è una risorsa, e se è una risorsa che può essere utile, non vedo perché no. Ci sono tanti italiani, è vero, ma quanti italiani con quelle caratteristiche? Non moltissimi, non possiamo. Io vedrei molto bene il Pazzini, vedrei molto bene il Girardino, che già conosce infatti, molto bene. Ma anche infatti, perché Mauri viene da un anno non proprio brillantissimo. Assolutamente, non... assolutamente, Fabio. Però io mi tengo per buono il ragionamento di Prandelli, cioè Girardino e Pazzini sono due giocatori che conosco a menadito. Non so perfettamente che cosa mi possono dare, so perfettamente cosa devo fare per metterli in condizione. Di fare il loro mestiere, cioè il gol. A Mauri non lo conosco e quindi lo voglio chiamare, lo voglio vedere, voglio capire di che cosa si tratta. Da questo punto di vista non mi sembra che faccia una grinza il ragionamento di Prandelli. Poi è chiaro che in questo momento c'è l'esigenza di fare questa operazione al massimo livello, questa operazione di simpatia, di restyling, di innovazione estrema a metà tra le esigenze tecniche che sono appunto quelle di Cesare e il marketing calcistico che ha prodotto, che ha portato i nomi che sappiamo in nazionale tra giocatori e dirigenti e che sta avendo un consenso incredibile da parte degli italiani traumatizzati dal mondiale. Quindi penso ci sia dentro un po' tutto questo in questa prima Italia di Prandelli. Marco, buongiorno, da Roma. Sì, buongiorno, gente. Sì. Allora, io parlo un po' da mondo, perché sono figlio di italiani, ma nato in Argentina. Sì. Io non conosco il caso Amauri, però posso parlare del caso Camoranesi, che lui ha accettato la nazionale italiana quando è stato scartato dalla nazionale argentina. Perché i mondiali di Corea e Giappone, se non sbaglio, Bielsa non l'ha chiamato. Uh-huh. Sì, no, è chiaro, altrimenti non avrebbe potuto rispondere alla convocazione nazionale italiana, e no, questo è sacrosanto. Appunto, cioè, se uno può giocare. Però, sì, dica. Però penso che se un giocatore vuole giocare con la nazionale italiana e viene chiamato, mettiamo il caso Mauri, dal Brasile, dica di no al Brasile. Nel caso di Camoranesi lui ha aspettato prima la convocazione di Bielsa e poi ha deciso di accettare la convocazione della nazionale italiana. Sì. Quindi io su quell'aspetto vedo che magari molti giocatori vogliono giocare in un mondiale, non interessa con quale maglia. Sì. A livello di nazionale mi sembra un po'... Ma guardi, io penso che al di là di delle chiamate, dei rifiuti e così via, no? È evidente, Marco, che ognuno fa il suo gioco. Giocare in una nazionale, giocare in una Coppa del Mondo è una cosa che tutti i giocatori sognano. È altrettanto evidente che il dietro front di Amauri è stato piuttosto visibile, no? Ma è comprensibile che da brasiliano la sua prima scelta fosse la nazionale brasiliana. Poi è chiaro che ci sono quelli che parlano di scarti. Però l'unico principio che secondo me è determinante è che un giocatore può indossare una maglia di una nazionale per la quale è eleggibile. E questo è il principio base, il principio che è tuttora in vigore ed è quello che conta poi. Nicola, provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Senta, mi scusi, io volevo soltanto fare un'osservazione. Sì. Allora, innanzitutto sono contentissimo di Prandelli perché sempre secondo me la squadra rispecchia molto il proprio allenatore. Prandelli è una persona molto umile, è una persona sensata, infatti nella sua nazionale ci sono giocatori di primo ordine e di alta personalità tipo Cassano, Balotelli eccetera eccetera, ci stanno tanti altri giocatori che sono molto umili, però al tempo stesso secondo me sono dei ottimi giocatori. Esempio pratico può essere Antonelli, può essere Molinaro. Sì. Eccetera eccetera, quindi è un giusto mix. Beh, io volevo spendere due parole per un ragazzo, Molinaro. Prima perché siamo amici sì. Insomma, siamo conterranei dello sì. stesso paese. Questo ragazzo è stato bistrattato un anno intero dalla Juventus, da Ferrara. È andato a Stoccarda. Beh, bistrattato da Ferrara no, Ferrara praticamente non ce l'ha mai avuto Molinaro. No, non l'ha fatto mai giocare, diverso. Ma non è che non l'ha mai avuto, non l'ha fatto mai giocare. Sì, ma è andato via subito Molinaro. Cioè, no. diciamo che Ferrara non lo ha trattenuto, perché Molinaro è andato allo Stoccarda. Ma detto questo sono molto contento anch'io, perché perché Molinaro è uno estremamente serio, non è un campione, non ha dei picchi, però io ho grande rispetto per gli italiani, qui torniamo a un discorso che abbiamo già fatto, e sono pochi, che vanno all'estero e riescono a farsi valere, a giocare comunque titolari, cosa che Molinaro è riuscito a fare benissimo nello Stoccarda, e quindi sono molto contento che arrivi questo premio azzurro per lui. Che poi sia un premio estemporaneo, che poi sia l'inizio di una storia più lunga, questo non lo so. Borsa, poi torniamo. A tempo di sport. Rapido riassunto della giornata. Dunque, Moratti ritira Maicon dal mercato, Krasic ha raggiunto un accordo con la Juventus, ma la Juventus non ne ha ancora raggiunto uno, chissà se lo raggiungerà con il CSKA di Mosca. Prandelli ufficializza la formazione per domani, Cassano, Balotelli, Amauri in attacco, Cassano avrà il 10, Balotelli avrà il 9 in questa operazione simpatia che ha preso il via. Caro Fede da Alessandria, non ci avevo con lei quando ho parlato prima di messaggi stupidini o stupidotti, ma per non usare termini peggiori, non era il suo, erano degli altri molto più scurrili che facevano riferimento a colori vari della pelle e così via. Lei invece dice il problema Mauri non è quanto si dice, sono scuse per un italiano su due, problema che gioca nella Juve. No, credo che questo sia un problema superato, di retroguardia Lippi non c'è più. Simone da Lodi, buongiorno. Buongiorno, interveniva se ce la facciamo, perché sento male. Sì, intervenivo in merito alla questione della convocazione degli... Sentiva male, l'ho detto io. Adesso ci riproviamo. 800 24 00 24, numero verde. Francesco da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, due argomenti. Sì. Il primo era il cambiamento della federazione, è rimasto a Bete. Sì. Quindi il cambiamento mi sembra un po' assurdo parlarne. Sì, sì, che sì. Fare con questo su Francia. E secondo, sulla polemica sugli oriundi, dico, secondo me non vale neanche la pena di parlarne. Abbiamo provato oriundi in atletica, nel rugby, nella... Ma certo, no, ma poi Francesco, lei fa bene a citare il rugby. A parte, al di là del discorso, Abete, sì, l'unico che è rimasto al suo posto, aggrappato alla poltrona, che si è portato anche in spiaggia, è Abete. Il resto è cambiato e vediamo se funziona, questo è quanto. Lei fa bene a toccare l'argomento rugby. Perché insomma adesso stiamo qui a parlare di Amauri, che ha ottenuto questi documenti, e ripeto, non li ha rubati e non li ha nemmeno comprati, ha ottenuto questi documenti, sono 10 anni che gioca nel nostro campionato. Nella nostra nazionale di rugby da molto tempo, basta che uno arrivi qui dopo 3 mesi, dall'Australia arriva qui dopo 3 mesi, è in nazionale. Su questo io avrei, su questo si potrebbero spendere parole, sul resto mi sembra, ha ragione lei, mi sembra un po' inutile. Vincenzo da Siena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, no, sulla questione di Mauri, lei di solito è molto acuto nel dare, diciamo, sì, delle delucidazioni a noi radioascoltatori. Sì. È proprio l'ultima, una delle ultime che ha dato all'ascoltatore italo-argentino, mi ha un po' stupito, cioè quando ha detto testualmente che ognuno fa il proprio gioco, a Mauri fa il suo gioco come l'ha fatto Camoranesi, che non poteva. Questo mi sembra che svilisca un po' il tutto. Cioè, cos'è che svilisce? Com'è? Cos'è che svilisce? Stiamo parlando di professionisti, eh? Sì, ma siccome si parla di indossare la maglia dell'Italia, cioè non è che la maglia dell'Italia, cioè, è oggetto di mercimonio e di convenienza a seconda se poi mi chiama Bielsa, mi chiama Dungo, non mi chiama. Mm. Cioè, faccio un esempio anche un po' più banale, ma il signor Amauri, eccetera, l'inno italiano lo conosce. Cioè, quando si tratta di vestire quella maglia, cioè l'inno italiano, oppure quando si gioca Italia-Brasile, sto signore, è chiaro, come lei, che il problema di Balotelli... Ma quando se ci fosse stato un Italia-Argentina, secondo lei Camoranesi come avrebbe giocato? Ma no, non è questo, cioè, questo concetto di oriundo nel nostro ordinamento non esiste. Cioè, voglio dire, uno o è italiano o non l'è, oppure o fa una scelta in tempi non sospetti, quando arrivano in Italia dopo 3 anni devono optare per una chiamata in Italia. Non è che a seconda delle convenienze uno piglia il passaporto, poi se non mi chiama uno, mi chiama l'altro. Non mi sembra, ecco, però. Io capisco, mi sembra serio. Vincenzo, io capisco, però insomma, stiamo sempre parlando. È inutile far finta che Biancaneve stia nel bosco insieme ai 7 nani, no? Sappiamo bene che questo è il professionismo. Quindi, Quei documenti sono regolari, sì, è leggibile, sì. In Italia, come nel resto del mondo, succede che questi giocatori vengano chiamati se sono funzionali a un'idea calcistica. Poi, se stiamo a fare dei discorsi sul conoscere parole di non nazionale, lui ha detto che le conosce ma non lo canta. Io ho detto che preferirei vedere che i giocatori non cantano in non nazionale, perché è una cosa che per me è una di uno stucchevole mai visto. Mi importa veramente poco del fatto che i giocatori cantino in non nazionale. Apprezzo di più vederli concentrati al massimo lì con la bocca chiusa ad ascoltare. Ecco, mi sembrano dettagli assolutamente di confine. Quanto al resto, ripeto, sono giocatori professionisti e tant'è. Io voglio molto bene a coach Dan Peterson e per questo ho aspettato che l'Italia vincesse una partita prima di chiamarlo. Ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Come la vedi tu questa storia? Innanzitutto tutto fa brodo, okay? Quindi sono contento per la vittoria, bisogna stare piedi per terra perché Ranico ha fatto 28-30 punti, okay? Quindi si poteva fare. Coppola non è neanche giocato e Moto era fuori dopo 10 minuti con un infortunio, quindi sì. un po' di disgrazie per loro, ma era importante vincere perché era stata più una questione psicologica che tecnica o atletica o altre cose. Quindi era tutto è nella stato testa, brodo per l'Italia, ma ovviamente adesso Montenegro, adesso dopodomani sarà una prova terrificante. Sono d'accordo, coach. E a proposito di oriundi o di giocatori eleggibili per la nazionale, mi sembra che il concetto ormai in tutti gli sport sia questo, quello di eleggibilità. Con un giocatore, questa nazionale manca un leader emotivo per questo gruppo, secondo me. Un giocatore come Storrook, che non è nato in Italia ma ha documenti che lo rendono eleggibile per la nazionale italiana, sarebbe stato estremamente utile. Ovviamente sono d'accordo con l'ascoltatore che ha chiamato prima, che un italiano non lo è, cioè che l'idea di queste manovre che mettono uno, però ovviamente se il regolamento è quello lì, abbiamo visto che cosa ha fatto la Francia per esempio nel calcio con tanti oriundi, e quindi è una cosa che io non approvo. Questa, secondo me è una cosa che non è incoraggiante per il giocatore nato e cresciuto in Italia, vivai in Italia, dei genitori italiani nati in Italia, quindi è una cosa che mi dà anche qualche preoccupazione. Però ovviamente, tornando alla domanda, manca veramente quel personaggio leader carismatico che dice ehi, facciamo questo schema qua. Sì. Io non voglio i giocatori o presenza che fanno il compitino, hai capito? Voglio quello che è lì veramente con grande personalità per farlo, e abbiamo la potenziale lì, ok? Mancinelli ce l'ha un po' di vero, questo. È vero. E anche mordenti, tanto per dire, perché sono veterani, navigati, trentenni, hanno visto di tutto, hanno fatto Final Four, hanno fatto vinto Scudetti, hanno fatto tutto quello che c'è da fare, ok? Quindi possibilità ce ne sono, ma qualcuno deve mettersi. Io penso che ci sono possibilità in squadra, ok? Un pochettino anche Bellinelli, tanto per dire, quindi non sono. Io sono convinto che potenziale per avere questa gente ce n'è, bisogna che vengano fuori. È una squadra comunque che gioca con grande paura, coach. Anche ieri sera, quando va nel buco, nella spirale negativa, non sa dove aggrapparsi. Due cose. Uno, finora, hanno fatto una grande fatica in due situazioni. Uno, quando viene in campo il secondo quintetto, cioè il secondo quintetto ha fatto una fatica in queste partite, cioè prendere il parziale, tipo ieri, da più 19 a più 4 in niente, ok? Con il secondo quintetto in campo. E forse anche Pianigiani rivedrà come mette questi giocatori in campo, perché un blocco intero di tutti e cinque insieme, io penso che è rivedibile adesso, e conoscendo lui sta rivedendo questa possibilità. E questa è una cosa. Cioè, quindi loro devono assolutamente avere più produzione al secondo quintetto. L'altra cosa, contro la zona hanno fatto una fatica enorme, perché secondo me bisogna fare contro la zona le cose semplici, un finto di passaggio. Quanti passaggi ieri sono stati o intercettati addirittura contro la zona, sì, oppure deviati? E l'altra cosa è l'uso giudizioso del passaggio schiacciato. Io sono un poco tifoso del passaggio schiacciato. Sì. Un anno, in un momento di grande pazzia, Carlo, sì, 80-81, io ho vietato alla mia squadra il passaggio schiacciato, troppi intercettati per me, ho detto prossimo che fa un passaggio schiacciato lo gli taglio le mani, sai è che me lo ricordavo, ecco. e quindi bisogna, perché se tu fai un passaggio schiacciato duro, deciso, che arriva in poco tempo, è un discorso. Se tu appoggi la palla per terra è in viaggio troppo tempo, sì, ok, quindi è una cosa che a me non va bene. Se fai un passaggio schiacciato deciso, deciso, soprattutto se devi darla a un lungo che certo. non sai come cosa succede in tutta quella strada, no? Dalle mani al parquet, alle mani, non sai cosa può succedere. Caro, mi hai dato un assist lì, perché il lungo, se mi permetto di difendere i lunghi, l'ultima cosa che lui vuole vedere è un passaggio schiacciato alla caviglia, ok? Sì, sì. Piuttosto lo colpisce in un occhio, il naso con la palla, però almeno le mani sono lì e può ricevere. Cioè, io ero l'idea, mai un passaggio schiacciato dentro a un pivot. Ieri abbiamo provato diverse e il risultato l'abbiamo visto. Poi guarda caso, sarà un caso, però il gioco della partita ieri, sul più tre, no? Con la Finlandia in furiosa rimonta, il gioco della partita è arrivato da due senesi. Rimbalzo offensivo di Res, canestro da tre di Cararetto, più esatto. 6 da lì d'Italia ha vinto. Guarda caso. Sono giocatori ormai abituati a giocare ad altissimo livello, ok? Cioè proprio... non è più una sorpresa per loro, cioè proprio sono stati sotto stress, sanno che cosa vuol dire, e quindi non è una grande sorpresa questa qui. Comunque complimenti a loro, hanno veramente fatto un grande lavoro. Costi, ti voglio far notare ancora questo sulla giornata di ieri. Obama che organizza questa partitella, vorrei giocare anch'io con Magic Johnson, LeBron James, Dwayne Wade. Bisogna sapere che... non importa il partito politico, Obama è un tifoso del basket, è un giocatore di basket che gioca, mi dicono, se non ogni giorno, quasi ogni giorno, sì, con un suo guardia di corpo, non so come dire, che vanno, non solamente con loro, ma con altri, va dentro e giocano, c'è un palestra evidentemente dentro la Casa Bianca e si dà da fare. E non è neanche male, visto i filmati di lui, è un mancino che tira anche abbastanza bene. Senti, ma con le tue conoscenze non è che porti anche me a giocare con Obama? Un giorno. Tu credi che io sono a Chicago, Obama da Chicago? Esatto. E come dicono in malalingua nell'America, è di Chicago di passaggio, che è stato lì. e anche io sono lì da tanto tempo, quindi lo dico scherzosamente. Tanto l'importante è che il primo venerdì di settembre non prendi impegni perché cominciamo la stagione di Palla Spicchia. Venerdì, ok, io sono sempre disponibile primo per voi. Venerdì ma di settembre. Flavio Suardi, dov'è? C'è più. Flavio Suarez, l'hai mandato via? L'ho mandato in esilio. Adesso dove? Ad Alcatraz. L'hanno rinchiuso ad Alcatraz, non esce più. Oh, ti ho detto diverse volte: bisogna mandare via Flavio Suarez. Finalmente mi hai ascoltato. Io ti do sempre retta. Ti do retta sempre, Cos. Grazie, un abbraccio. Ciao, Cos. Ciao. Cos Dan Peterson, traffico e poi ascoltatori. A tempo di sport. Tanto Moratti ha detto che non vende Maicon, è ufficiale, se lo tiene, e che non prende Mascherano. A questi livelli non sono possibili acquisti di tal genere, ha detto Moratti, non in questo momento qui, specialmente non avendo venduto nessuno. Quindi resta Maicon, forse arriva Scully, e sempre tra le righe dei discorsi di Moratti, Mascherano no, perché costa troppo e ancora nessuno è uscito, quindi nessun denaro è entrato nelle casse dell'Inter. Ha parlato anche Fabio Capello alla vigilia del ritorno in campo in amichevole dopo il fallimento mondiale. Ho commesso degli errori durante il mondiale, ma riparto con la convinzione che dalle esperienze positive si impara, che dalle esperienze positive, dalle esperienze negative si impara molto. Forse c'è un errore. Comunque, prima parola di Fabio Capello, e non capita tutti i giorni di sentire Capello che dice ho commesso degli errori. Roberto Frosinone, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei soltanto rivalutare una cosa. I giovani di qualità italiani, che negli ultimi anni subiscono anche nei settori giovanili, partendo dalla Serie D fino alla Serie A, poca considerazione. E secondo me a discapito anche di giocatori argentini e via dicendo. Una cosa che sto vedendo negli ultimi anni, che secondo me va un po' frenata, perché non dà modo, insomma, ai nostri giovani di talento italiani di mettersi in mostra. Guardi, non lo so, io sono del parere che se uno è bravo emerge, perché l'autolesionismo... non lo so, non, guardi, io son, ripeto, sono dell'idea che non ne farei una questione di passaporti, ne farei una questione di qualità e di voglia, di mentalità. La mia impressione è che anche nei settori giovanili i ragazzi, che anche questo è un dato di fatto e anche questo è una... è un passaggio obbligato, l'impressione che i ragazzi che arrivano dall'Africa, che arrivano da altri paesi ancora molto giovani, abbiano più fame dei nostri. Questa è una mia sensazione, perché se in un club professionistico se emerge un giocatore forte non stai lì a guardare da che parte arriva. Se è italiano tanto meglio, perché ripeto, l'autolesionismo non credo sia contemplato, quindi ne farei una questione di qualità. Ovviamente tutti speriamo che emergano giocatori italiani forti in tutti gli sport e a tutti i livelli, però ho anche l'impressione che i giovani italiani che vogliono emergere debbano rimboccarsi le maniche, non possono e non possano pretendere il posto assicurato perché sono italiani. Quel posto assicurato nello sport professionistico nel 2010 bisogna guadagnarselo. Andrea da Ferrara, buongiorno. Buongiorno gente. Salve. Sono pienamente d'accordo con quello che hai detto, anche se no, bisogna fare secondo me un appunto. A livello mediatico fa più scalpore. Pronto? Sì, sì, sto ascoltando. Fa più scalpore il nome brasiliano, il nome del... Ma Andrea, Marco Borriello. Ma forse ormai non più, Forse ormai non più. No, gente, sinceramente io è 30 anni che gioco a calcio, un po' ormai credo di averne mancato. Sì. Da una Mauri oggi a un Marco Borriello, sinceramente fa più scalpore a livello mediatico il nome di aver portato Mauri. A Marco Borriello non ha nulla da invidiare, sì, ad un giocatore come Mauri, ma sia a livello tecnico che a livello tecnico, a livello di piedi. Allora, sono abbastanza d'accordo, Andrea, sono abbastanza d'accordo. Borriello innanzitutto è lì in nazionale, io credo lo vedremo in campo ad Upton Park domani, se non all'inizio, nel secondo tempo. Certamente Borriello merita di far parte di questa nazionale, perché è una prima punta di grande qualità, secondo me. Io tra i due non ho dubbi e prendo Borriello, ma anche qui questione di gusti. Ripeto, secondo me in questa prima nazionale c'è molta voglia di far entrare aria fresca e aria nuova dalle finestre. Quindi anche in questo senso leggo la convocazione immediata di Amauri, il fatto che venga subito schierato come titolare. Poi però, e ritorniamo all'autolesionismo di qui sopra, se Prandelli si accorgerà e capirà che Borriello è l'uomo che gli serve, allora Borriello giocherà e Amauri starà a guardare. Lì è una questione di chi se lo meriterà di più, di chi sarà più funzionale al suo progetto. Bene fa invece Prandelli a vedere, a conoscere, a prendere contatto con un giocatore che a questo punto è eleggibile come Amauri. Alessandro da Lecce, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo soltanto dire la mia opinione per quanto riguarda il discorso degli oriundi, cioè non penso che sia una questione di natura etnica o di natura di colore della pelle o di passaporto e documenti. Cioè, nel senso, un giocatore per vestire la maglia della nazionale, non parliamo di una squadra di club dove c'è ognuno fa il suo gioco, perché è una questione di mero agonismo finalizzato anche a un discorso economico e quant'altro. La nazionale deve seguire giocatori che siano il prodotto e che rappresentino la nazionale, quindi gli oriundi della Germania, per dire, Ozil, Khedira o Boateng, al di là della loro pelle, dei loro cognomi che sono esotici, sono comunque il frutto di il prodotto del calcio tedesco, perché sono nati lì, sono cresciuti calcisticamente lì e quindi sono nati calcisticamente in Germania e quindi sono prodotto effettivo dalla nazionale tedesca, cosa che succedeva per la nazionale francese, succedeva per l'Olanda. Per l'Italia, ecco, secondo me il discorso di Amauri non regge a quel punto lì, perché Amauri, così come Camoranesi, al di là del fine, che voglio dire, Camoranesi è stato utilissimo, secondo me, per la vittoria del Mondiale, quindi sono contento, però a livello di così teorico, di espressione del calcio italiano, Camoranesi, un giocatore che non esprimeva quasi nulla di italiano. Allora, il discorso è corretto, però a parte il fatto che anche Camoranesi è arrivato in Italia molto giovane, anche lo stesso Amauri è arrivato in Italia che aveva 20 anni, no? Adesso ne ha 30, ha giocato 10 anni nel nostro campionato, è vero, non è andato in Italia, è vero, non è un prodotto dei nostri settori giovanili. Può essere però l'eccezione, no? L'eccezione del giocatore che comunque, ripeto, nello sport professionistico del 2010 ha documenti in ordine, in regola, come capita in altre nazionali e in altri sport, e viene convocato. Questo può piacere o non piacere, a me sembra semplicemente un segno dei tempi. Ripeto anche qui, trovo semmai più discutibile il fatto che in altri sport, come ad esempio il rugby, sia sufficiente arrivare qui, giocare qui un mezzo campionato e poi vestire la maglia della nazionale, non senza saperlino, senza sapere neanche la lingua, perché accade di frequente. Insomma, la situazione è questa. Io non, ripeto, non trovo nulla di peccaminoso nel fatto che Mauri venga chiamato in nazionale. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, anch'io mi volevo collegare al discorso Mauri. Non tanto in quanto oriundo, che trovo tra l'altro un termine odioso, sì, nel concetto moderno di villaggio globale, è una frase che non ha senso. Sì. E come, d'accordo con lei, è vero, è in 10 anni che gioca in Italia, eccetera, eccetera. Però qua siamo, io il punto non lo focalizzo sul fatto della sua origine, quanto piuttosto su un discorso di presa di coscienza e di dignità di fare delle scelte. Io non dimentico che il signor Mauri, fino a un annetto fa, ovvero quando Dunga ha deciso chi portare al mondiale, era titubante, sì, sì, e tentennava. Sì, sì. Sì, sì, dopodiché, tolte, cioè emanate le convocazioni, e ha capito che non era aria per il Brasile, ha deciso di buttarsi sull'avventura italiana. Uh-huh. Tra l'altro stiamo parlando, tra l'altro non credo di offendere nessuno se non dico che non è paragonabile a un Maradona. È un signore, è un giocatore, un buon giocatore, un ottimo giocatore di 31 anni, che comunque in quel ruolo, davanti ai nostri Borriello, Pazzino, Girardino, Pazzini o Girardino, non sì, credo sfigurino però, più di tanto. Andrea, io la capisco, no, ma la capisco, il discorso ha un senso, esatto. Sogno il Brasile, a Mauri l'aveva detto, oggi ad esempio Alberto Costa ricorda anche la data, il luogo, Gazzetta dello Sport, 3 agosto 2008, a Mauri sogno il Brasile, è vero. Poi ha fatto retromarcia, poi adesso vediamo cosa combina. Può essere chiamato, accettato la convocazione. Non credo che, insomma, che bacerà la maglietta dopo il primo gol, semmai segnerà un gol in azzurro, però vediamolo, se può essere, ripeto, funzionale alle esigenze di Prandelli e può essere chiamato, perché no? Adesso il campo se lo dovrà meritare. Prandelli non è fesso e non è autolesionista, se gli serve di più, se ritiene più forte a Mauri o più funzionale a Mauri per il suo gioco, giocherà a Mauri, se no giocherà Borriello, oppure vedrete che succederà così, alla fine il ruolo di prima punta toccherà di centravanti, toccherà a Girardino. Quindi in questo senso, poi io posso capire e capisco benissimo queste perplessità legate al fatto che, insomma, diventa un po' difficile accettare un giocatore che aveva detto, ma come era del tutto legittimo, vorrei giocare alla nazionale brasiliana. Adesso, per chiudere, accendiamo i motori. Sport e motori. È un piacere per me salutare Claudia Peroni. Ciao Claudia. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buone vacanze, buona estate. Vacanze magari. Buone vacanze a chi ci ascolta che è in vacanza. Bravissima, buone vacanze a chi ci ascolta. Senti, settimana di Brno, ma anche la settimana di Rossi alla Ducati. Il mondiale credo sia in cascina per Lorenzo, ma questo fine settimana sarà particolarmente importante su due ruote. Direi proprio di sì, però è importante per questo annuncio innanzitutto, che non avverrà, perché guarda, ho parlato recentemente con Guareschi, la Ducati, e lui mi ha proprio detto che intendono comunque confermare Aiden, e la prima cosa che verrà annunciata sarà questa, e successivamente solo quella di Valentino, che comunque ormai è inutile, è un segreto di Pulcinella. Esatto. Per il resto credo che Brno sarà, potrebbe essere un po' il giro di boa del campionato in tutti i sensi, perché insomma è normale, una gara che viene disputata a Ferragosto è giro di boa anche già solo perché in piena estate. Sì. Però ecco, Lorenzo credo che lì vorrà mettere dei bei paletti sul suo dominio, sì, assoluto, sì. Sul suo campionato. Sì, sì. Senti, invece in Formula 1 sono due settimane decisive, come dice Alonso, tese. Sì, ci si prepara per lo sprint finale. Immagino grandi lavori all'interno delle scuderie, perché perché dall'ultimo weekend del mese comincia lo sprint. Sì, devo dirti che io ero a Budapest in Ungheria per l'ultimo Gran Premio e mi ha fatto, inutile nasconderlo, grande piacere vedere come Alonso sia riuscito a riaprire, a far riaprire il mondiale per quel che riguarda la Ferrari, insomma ha ridotto il suo gap e questo non può che rendere ancora più interessante il tutto, perché sono 5 piloti racchiusi in 20 punti, piloti tra l'altro del calibro insomma di Hamilton, di Alonso, di Button e dei due della Red Bull, sì, che vabbè, insomma, sono naturalmente super favoriti, certo. Mark Webber e Sebastian Vettel, perché la macchina finora è stata nettamente superiore, però abbiamo anche visto che con gli errori hanno perso dei punti preziosi, per cui mi sembra di capire che sarà un campionato mondiale lottato veramente fino alla fine. Questo mi fa molto piacere. Sì, anche a me. Grazie Claudia. Grazie a voi, grazie ancora, un bacio, un saluto a tutti. Grazie ciao. Davvero Claudia Peroni, miglior modo per chiudere il primo programma della settimana non ci poteva essere.